ad alta voce. Teresa Saponangelo legge Il paese di Cuccagna di Matilde Serao. Capitolo 18. Siloca. Il giorno 4 di gennaio 1884, prestissimo nella mattinata, la portinaia del Palazzo Rossi, già Cavalcanti, appoggiò una scaletta di legno a pioli all'architrave del portone sul lato destro e attaccò alla pietra pipernina 3 quadrati di carta su cui stavano stampate, quindi 3 volte ripetute, le parole Siloca. I 3 cartellini dicevano che erano disponibili 3 appartamenti grandi di tante stanze, visibili nelle tali ore, e discendendo dalla scaletta la portinaia sospirò di malinconia. Era da anni che non si fittava più un appartamento. Nel Palazzo Rossi tutti ci si trovavano a meraviglia e restavano. Ella era diventata familiare di tutti. E nei 4 mesi in cui si visitano le case, dal 4 gennaio al 4 maggio in Napoli, ella si pavoneggiava nel suo ozio, ella non doveva andare su e giù per le scale ad accompagnare i visitatori, come le portinaie vicine del Palazzo De Rosa, del Palazzo La Tilla. Ella non arrischiava di cambiare degli inquilini che le volevano bene, con nuovi inquilini sconosciuti e forse cattivi. E invece, giusto quell'anno, tutti insieme restavano vuoti 3 grandi appartamenti. Uno al primo piano, quello di Fragalà, 2 al secondo piano, quelli del dottore Amati e del marchese Cavalcanti. Un vero disastro per la portinaia, che non avrebbe avuto mai requie in quei 4 mesi e la sua fatica non gliela compensava nessuno. Tutti insieme, 3 grandi appartamenti, era una vera disgrazia, una mala sorte sua, diceva la portinaia, e a coloro che la compativano e che chiedevano le ragioni di quei traslochi, ella narrava subito le ragioni, anche perché la gente non credesse che il Palazzo Rossi fosse troppo umido o minacciasse di crollare o che il padrone avesse avuto l'idea di aumentare la pigione ai 3 inquilini. Oh, niente di tutto questo. Disgrazie, disgrazie. Ogni tanto ne viene giù una fitta di queste disgrazie. E ve n'è per tutti, fratello mio, sorella mia. Era naturale che Don Cesarino Fragalà e quell'anima buona di Donna Luisella Fracalà abbandonassero quella casa dove si erano sposati, che era bellissima, veramente un appartamento magnifico. Non potevano più pagare quella pigione così cara. Il marito aveva giocato tutto all'otto ed era così carico di debiti, così rovinato col magazzino di dolci in Piazza dello Spirito Santo, che la moglie, sgomenta da un prossimo fallimento, aveva deciso di vendere tutto: gioielli, argenteria, mobili, ogni cosa di lusso, di fare una liquidazione generale e di andarsene in una piccola casa dove ella avrebbe trovato a suo marito qualche piccolo impiego commerciale per mandare innanzi la famiglia. E la portinaia col suo interlocutore rammentava le 2 splendide feste per il matrimonio di Cesare Fragalà con Luisella, per la nascita della piccola Agnesina, gli splendori di quei ricevimenti, gelati, dolci, vini, un subisso. «Gesù, Gesù», mormorava l'interlocutore, uomo o donna. «E ha perso tutto alla buona afficiata. Tutto. Sono ridotti senza un soldo se vogliono pagare i debiti. E donna Luisella paga, muore, ma paga. Che birbante di marito!» «Non ci facciamo maestri di nulla», sentenzia la portinaia profondamente. «Tutti siamo di carne». Le dispiaceva, sì. Le dispiaceva che i Fragalà se ne andassero chissà dove. Non li avrebbe riveduti più. Massime le dispiaceva per quella piccola Agnesina, così buona, così placida, così obbediente, che già andava all'asilo infantile, piccolina piccolina, accompagnata da sua madre che andava a riprenderla teneramente ogni giorno. Erano buona gente. Va a sapere chi sarebbe venuto al loro posto. E il trasloco del marchese Cavalcanti era una cosa preveduta da tempo. Non pagava la pigione da tanti mesi e il signor Rossi aveva sopportato di avere ogni tanto un acconto, anche perché il marchese Cavalcanti era stato l'antico proprietario della casa, che gliel'aveva venduta. Non voleva scacciarlo brutalmente. Quanta pazienza aveva avuto. Ora non poteva più tollerare. In casa Cavalcanti mancavano spesso le 5 lire per mangiare e il marchese portava via i mobili più necessari a uno vendendoli a un rigattiere del largo Baracche. La signorina, povera anima di Dio, pranzava talvolta con un piatto cucinato che le mandava dal monastero delle Sacramentiste sua zia, Suor Maria degli Angioli. E i due vecchi servitori, Giovanni e Margherita, cercavano di lavorare. La donna rammendando calze e maglie di seta, l'uomo copiando carte per un usciere del tribunale. Una miseria. Una miseria tale che se non fosse stata una gran vergogna, la portinaia avrebbe spesso portato in su un piatto dei suoi maccheroni o della sua minestra verde, ma non osava, quelli erano signori e sopportavano la miseria in silenzio. Del resto, per la mancanza della dote, la marchesina Cavalcanti era stata respinta dal diventare suora della carità. E in altri monasteri, in altri ordini, non era permesso più entrare con la nuova legge. Neanche monaca si può diventare con questo governo. «E a maggio se ne vanno?» domandava la interlocutrice vagamente impietosita. «E dove vanno? Chi lo sa?» Ma io dico che la marchesina non lo vede quel giorno, sta così male, si consuma ogni giorno come un cero. Non dice nulla, nulla. Ma quando ha la forza di comparire dietro un cristallo del balcone mi pare un'ombra. Non esce più. Già non ha vestiti per uscire e se li avesse le mancherebbe la forza di fare un passo. Ah, povera signorina, e pensare che il padre l'avrebbe potuta maritare se avesse voluto. E con chi? Perché non ha voluto? E qui cominciava la terza dolente nota della portinaia, la partenza del terzo suo inquilino, il dottor Antonio Amati, quello che le faceva guadagnare tanti denari per le chiamate improvvise dagli infermi. Ah, egli se ne andava, anzi se n'era andato mettendola sul lastrico la povera portinaia che non avrebbe più guadagnato un soldo. Figuratevi che il dottor Antonio Amati, che era già ricco e che guadagnava quello che voleva, proprio per fare una carità, tanto era un buon signore, aveva voluto sposare la marchesina, così bella e così cara. E anche lei gli voleva bene al medico, un bene dell'anima, perché l'aveva assistita nelle sue malattie, perché non aveva conosciuto altri uomini, perché, infine, egli solo poteva toglierla a quella miseria. Ebbene, non era da credersi, ma il marchese Cavalcanti aveva detto no. Si era incocciato a dire di no, sempre di no, facendo perdere quella buona fortuna unica, come non se ne trovano più alla sua figliola. «Voi che dite?» esclamava la interlocutrice. «Non pare vero». «Già, già, pareva una bugia, ma il marchese Cavalcanti aveva detto no. Gli faceva onore e piacere che il dottor Amati avesse cercato la figlia, ma certi nonni suoi, antichi, antichi, antichissimi, avevano lasciato una carta scritta con cui si diceva che l'ultima figlia femmina della famiglia non doveva maritarsi, doveva morire zitella. E se questo ordine non si eseguiva, era preparato un gran castigo di Dio per lei. Quante lacrime aveva sparse la marchesina non si può sapere, ma il padre era stato duro. Tanto che il dottor Amati, una sera che ci aveva fatto una lite terribile, per togliere ogni nuova occasione di collera e per levarsi dalla testa quell'idea, aveva cercato un mese di permesso all'ospedale, aveva lasciato tutti i suoi malati e se n'era andato al suo paese, da sua madre. Poi era ritornato, ma non aveva voluto più mettere piede nel Palazzo Rossi e se n'era andato ad abitare una casa mobiliata in via Chiaia. A Palazzo Rossi la casa era chiusa, con tutti i suoi mobili e i suoi libri, che il medico non leggeva più. Ogni tanto veniva la governante a pulire e se ne ripartiva dopo poco. Ora, anche i mobili e i libri sarebbero stati portati via. A maggio l'appartamento restava vuoto. Ah, povera marchesina! Quante volte l'aveva vista la portinaia comparire dietro i cristalli del balcone nella corticina interna e fissare i suoi occhi già smorti su quel balcone del medico chiuso, ermeticamente chiuso. Che pena faceva al cuore quella misera creatura della Madonna che si consumava di malattia, di malinconia e di miseria. Proprio pareva che non vi fosse più olio alla lucerna. Margherita, la cameriera, quando gliene parlavano, abbassava gli occhi per non far vedere che le veniva da piangere. Ma il marchese non aveva avuto torto di obbedire alla volontà dei nonni. Coi castighi di Dio non si scherza. Stava scritto, osservava approvando la interlocutrice tutta pensosa. Scritto, figlia mia, la volontà di Dio, che volete fare? I ricercatori di case cominciarono subito ad affluire per visitare gli appartamenti disponibili nel Palazzo Rossi. E la via Crucis della portinaia su e giù per le scale, dalle 10 della mattina alle 4 del pomeriggio, non terminava più. Ogni volta che una famiglia si presentava innanzi al suo casotto e faceva le interrogazioni di rito, ella crollava il capo, sospirava e si levava per accompagnarla su al primo o al secondo piano. Andava avanti, salendo piano piano, rivolgendosi a discorrere con questi cercatori di asilo, con la familiarità della piccola gente napoletana, e faceva scricchiolare le chiavi che teneva sospese alla cintura se coloro volevano visitare la casa del medico che ne aveva affidata la custodia alla portinaia. Monotonamente, girando per le stanze vaste, mobiliate un po' severamente, dove ancora restava l'austera impressione morale di una grande scienza, di una grande volontà, e di tutte le miserie umane che là erano venute a chieder soccorso, ella vantava la casa e il dottor Amati, il famoso dottore, per cui si riempiva d'ammirazione Napoli e tutto il mondo, come ella diceva. «Ah!» dicevano i visitatori meravigliati. «E perché va via?» In fretta, ella soggiungeva che il dottore si ammogliava e aveva bisogno di una casa più vasta, o che i suoi affari avevano cambiato di centro, o che egli si restringeva d'appartamento avendo preso uno studio all'ospedale. Insomma, una bugia qualunque. Una bugia così frettolosa e poco logica che i visitatori, dotati già di una naturale diffidenza, non accettavano affatto e la interrompevano. «Ah, va bene, ritorneremo». Ma non tornavano punto, impressionati un po' tristemente dall'aria solitaria e grave di quell'appartamento, dai troppi libri, dalle troppe macchine chirurgiche e infine da quel seggiolone a letto di cuoio nero su cui si distendeva l'ammalato per essere visitato e che pareva come il preliminare della tomba. E andavano via in fretta, parlando piano, come intimoriti, anche più intimoriti dall'assenza del dottore, il temuto e rispettato iddio della medicina. Fuggivano e non tornavano più, con la fantasia abbuiata, non volendo mica venire a contristarsi in quell'ambiente così gravemente pensoso. La portinaia sulla soglia del portone li vedeva andar via lestamente verso Toledo, dove c'era il moto, la luce e l'allegrezza, e malgrado le loro vaghe promesse, vagamente proferite, ella capiva che non sarebbero più ritornati. «Non si combina nulla, comare mia», ella diceva ogni tanto con aria stanca alla sua vicina portinaia del Palazzo di Rosa. E non si combinava nulla neppure per gli appartamenti che lasciavano le famiglie Fragalà e Cavalcanti, quasi che i visitatori sentissero la mala sorte che emanava da quelle due case, dove tante lacrime erano state versate, dove tante se ne versavano. In casa Fragalà, la malinconica e valorosa Luisella si era già disfatta di una gran parte dei mobili. Il bel salone rosso era oramai nudo dei suoi mobili di antico broccato. La bimba dormiva nella stanza dei suoi genitori e la vita di costoro, di un tratto immeschinita, miserita, si era ristretta alla camera da letto e alla stanza da pranzo. Talvolta i visitatori trovavano la famigliola a pranzo, alle 2. Cesare Fragalà teneva gli occhi fissi sul suo piatto, mangiando macchinalmente. Luisella taceva, rotolando palline di mollica fra le dita, e la piccola Agnesina, savia, buona, guardava il padre e la madre volta a volta, non facendo nessun rumore con la forchetta e col cucchiaio per non disturbare. E quando i visitatori entravano, il padre di famiglia impallidiva, la madre di famiglia chinava gli occhi. Ambedue a ogni visita sentivano di dover andar via da quella casa e ancora la loro piaga frizzava, mandava sangue. La bambina li guardava e ripeteva assai sottovoce «Mamma, mamma». I visitatori, accompagnati dalla portinaia, sentivano di disturbare e chiedevano scusa passando nelle altre stanze mentre la portinaia parlava volubilmente per stordirli. Quando essi vedevano deserti, vuoti, il salone, il salottino e l'anticamera, si scambiavano delle occhiate bizzarre, tanto che la portinaia fremeva d'impazienza, bestemmiando in cuor suo tutti, chi va via dalle case, chi li va cercando e anche chi li accompagna su, cioè proprio lei, che doveva avere questa dura sorte. E i visitatori facevano la domanda di rito con un certo sospetto: «Ma perché se ne vanno?» Allora ella si decideva e sottovoce mormorava: «Sono falliti». «Ah!» esclamavano interessati i visitatori. Nelle scale ella dava i particolari, diceva la ragione del fallimento, narrava l'antica ricchezza e la moderna strettissima privazione di ogni bene materiale. Diceva il coraggio della povera signora Luisa di fronte alla indomabile passione del marito per la bonafficiata. Diceva la bontà della povera piccola Agnesina che pareva avesse capito esser lei nata e cresciuta nel cattivo tempo della sventura. I ricercatori di casa ascoltavano incuriositi, con quella emozione a fior di pelle che è particolare ai meridionali, ma da quello che avevano visto, come da quello che loro narrava la portinaia, essi ricevevano una singolare impressione di malaugurio, una fatalità che si era appesantita sopra una famiglia buona e innocente, un tetro destino che ne aveva distrutto tutte le sorgenti di felicità e di energia. Ah! Davano le spalle alla casa di Fragalà e al Palazzo Rossi lentamente i visitatori di casa, ma restava loro una tristezza nell'anima e parlavano fra loro di quei disastri umani così implacabili, così impreveduti e invincibili. Chi l'attribuiva al perfido destino, chi alla iettatura, chi faceva della filosofia sulle passioni umane, sul gioco specialmente, ripetendo ancora quella frase che racchiude tutta l'indulgenza, tutto il perdono napoletano. Signori miei, non ci facciamo maestri. Nell'appartamento del marchese Cavalcanti si penetrava con difficoltà. Spesso Margherita si opponeva che le persone visitassero la casa, malgrado che fosse l'ora delle visite. La portinaia parlamentava, irritandosi un poco, levando talvolta la voce, chiedendo come si sarebbe mai potuto affittare un appartamento quando nessuno poteva entrare a vederlo. Talvolta otteneva di entrare da un battente socchiuso. Tutti tacevano immediatamente e dall'anticamera gelida e nuda al nudo e gelido salone vi era un tal freddo, un tale odore di vecchia polvere smossa che faceva ribrezzo. Sulle mura erano disegnati in larghe macchie scuricce i profili dei mobili che vi erano stati un tempo e che il marchese Cavalcanti aveva venduto per giocarne il valore al lotto. Si vedevano i grossi chiodi a uncino a cui una volta erano stati sospesi i quadri. Un mucchio di vecchie carte giallastre era per terra, in un angolo del salone vuoto. E dove erano state attaccate le tende alle porte e ai balconi, restavano i buchi scalcinati, donde parevano essere state strappate con violenza. Anche la cappella era senza più un santo. Venduto l'Ecce Homo, venduta la Madonna Addolorata e le frasche e gli ornamenti e persino la fine tovaglia guarnita d'antico merletto, tanto che quell'altare spogliato aveva un lugubre, un sacrilego aspetto. Attraverso questa casa, ogni tanto, i visitatori incontravano una pallidissima, esilissima figura di fanciulla in veste nera, con le magre spalle avvolte in uno sciallino gramo, con le grosse trecce nere che le rendevano ancora più esangue il volto. Ella fissava i suoi occhi dolenti sui visitatori, come se non si raccapezzasse, e un'ombra di dolore li rianimava per un minuto quando ella intendeva che doveva abbandonare quel tetto, quell'asilo. La portinaia sottovoce diceva «La marchesina!» Senz'altro. Ed era quell'apparizione come tutta la grande linea di un disastro morale irrimediabile. Talvolta i visitatori accompagnati dalla portinaia da Margherita, la cameriera, arrivavano davanti a una porta chiusa. La cameriera esitava un momento, ma a un'occhiata suggestiva della portinaia si decideva a bussare. «Eccellenza!» «Possiamo entrare?» «Sì, sì», rispondeva una fioca voce. E tutti vedevano una misera stanzetta verginale, dove si gelava di freddo, dove la smorta creatura dal vestito nero, avvolta nel gramo sciallino, era seduta presso il suo lettuccio o si levava prestamente dal suo inginocchiatoio. Allora, intimiditi, coloro davano appena un'occhiata rapida, mormoravano vagamente qualche parola di scusa e se ne andavano, mentre la fanciulla li seguiva coi neri occhi pensosi e dolenti. Nelle scale essi osavano parlare, domandavano alla portinaia come se si trattasse di persone e di cose morte. «Come si chiamavano costoro?» «I marchesi Cavalcanti», diceva la portinaia. E i visitatori andavano via, portando l'impressione profonda di cose e di persone estinte.